Vendo tutto di Matteo Caccia. Vendere le cose non è solo un modo per liberarmi di tutto. È la maniera per ricordarmi che quello che non si vede, che non si tocca e che non si dice è più forte di quello che ho accumulato nella mia vita. Quindi non mi fermo e vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una scatola di caramelle. Sono le 16:07, questa era di 24. Io sono Matteo Caccia, fuori dalla Serra del Sole 24 Ore c'è un gran sole e a Milano si sta un gran bene. Se non vi è ancora capitato di farlo, quando c'è una bella giornata, in particolar modo a maggio, venite a farvi una passeggiata a Milano, che al contrario di quello che si dice, non è un posto brutto. Buongiorno a tutti, 800240024, perché oggi si parla di odori e dei ricordi che questi odori ci aprono. Vi spiego il perché. Oggi vendo una scatola di caramelle con dentro le liquirizie. Sembra una stupidata, cioè sembra un oggetto stupido, ma non lo è per niente, e a breve vi spiegherò perché. Anzi, ve lo spiego subito. Il perché: ogni volta che io apro quella scatola, o qualunque scatola che contenga delle liquirizie, mi viene in mente mia nonna. Per il semplice fatto che mia nonna mi ha sempre regalato delle scatole di liquirizie, e quindi quell'odore lo associo a lei. Fughiamo qualsiasi dubbio, ci sono stati dei fraintendimenti prima sul profilo Facebook. Mia nonna non è morta, anzi, ciao nonna, è lì che mi ascolta. Mia nonna mi dice sempre di parlare molto più adagio, che non capisce bene, quindi prova. Ciao nonna, va tutto bene? Tu stai bene, io sto bene, non sei morta, nonostante quello che qualcuno ha detto su Facebook prima. Quindi il ricordo di mia nonna è legato a queste liquirizie per il semplice fatto che, non avendocela sempre davanti, ogni volta che la vedo mi viene in mente quando lei me le regala. Questa cosa degli odori non la scopriamo noi, ovviamente. Gli odori sono una sorta di grande macchina del tempo, ma anche dello spazio. Ci trascinano in luoghi e in tempi che abbiamo già vissuto e che sono legati proprio a quell'odore lì. Elisabetta, ad esempio, scrive: a me capita con un doccia schiuma. È un legame definito della mia infanzia, ma non ricordo più che cos'era. Purtroppo non ho più chi mi può aiutare a ricordare, ma quella sensazione è fantastica. Marco dice: a me è capitato con il profumo dell'erba bagnata. Prima di scendere in campo, mi è capitato con il profumo dell'erba bagnata prima di scendere in campo. Ho giocato a rugby per 22 anni. In una partita poi mi sono rotto di brutto la caviglia e quando un giorno ho sentito quell'odore, una tempesta di emozioni mi ha attanagliato. Profumo di erba bagnata. 800240024 oppure 349-238-6666. Si parla di odori e dei ricordi che evocano oggi. Simona ancora mi scrive: quando ero bambina, mia nonna d'inverno accendeva il caminetto e ci buttava dentro la buccia d'arancia per profumare l'aria. Un profumo che è sempre con me e mi ricorda sempre lei. Si fa anche sui termosifoni, no, si faceva sulla stufa in realtà la buccia d'arancia, però c'è qualcuno che lo fa ancora sui termosifoni. 800240024 349-238-6666. Non devono essere per forza dei buoni odori. Anzi, ci sono degli odori cattivi che però evocano buoni ricordi. Mi capita sempre con l'odore dell'immondizia. So che fa strano, ma accade così. Quando ero bambino andavamo sempre al mare in un posto con i miei genitori, che era un paesino dell'isola d'Elba, in cui evidentemente, come succede in molti paesini del litorale italiano, delle isole in particolar modo, d'inverno per 9 mesi ci abitano 3.000 persone, in estate ne arrivano 40-50.000, e quindi i servizi sono un po' lenti, no? a stare dietro al flusso di persone che è arrivato. E la strada che facevamo dalla casa che affittavamo alla spiaggia era sempre costellata di cassonetti dell'immondizia strapieni, proprio perché evidentemente non riuscivano a raccoglierli in tempo. Faceva caldo, quindi l'immondizia maturava, marciva, e c'era questo odore nell'aria proprio di immondizia, che però io associo a un ottimo ricordo. Quindi ogni volta che sento un odore di immondizia mi ricordo di quando ero bambino ed ero felice ad andare in spiaggia. 800240024 349-238-6666. Potremmo parlare di Madeleine, ma non lo facciamo per due motivi. Primo, perché si tratta di odori, non di sapori. Secondo, perché non vogliamo fare gli intellettuali, perché non lo siamo. 349-238-6666. Prima di lanciare, però, voglio tornare al grande concorso. Vabbè, grande, esageriamo, dai Matteo, calma, anche meno. Al concorso Vendo Anch'io, visto che continuano ad arrivare i racconti di tutti gli ascoltatori che vogliono partecipare al concorso e che soprattutto si stanno iscrivendo per venire a Riva del Garda il 18 e il 19 di giugno, dove ricordo faremo la diretta venerdì 18 alle 16 e la serata Vendo Anch'io sabato 19 alle ore 22 in diretta dalla Piazza delle Erbe di Riva del Garda. Che cosa dovete fare? Scegliere un oggetto che vi rappresenta, scrivere un racconto di una pagina, un oggetto di cui volete liberarvi, scrivere un racconto di una pagina e mandarci il racconto racconto, una breve biografia e un desiderio che volete realizzare. Noi scegliamo i 5 migliori racconti e la sera del 19 di giugno alle ore 22 i 5 finalisti, cioè i 5 migliori racconti, saranno lì a Riva del Garda, presenti con i loro oggetti, io leggerò i loro racconti e il vincitore si prenderà i soldi dell'asta della vendita di tutti e 5 gli oggetti lì tra il pubblico di Riva del Garda. Tra i vari racconti che sono arrivati è arrivato il racconto di Antonella. Allora, aspetta che c'ho 70 fogli qui. Antonella, eccolo qua. Antonella, che è trentina, adesso vive a Nizza e vuole liberarsi di uno step da camera. Scrive un racconto, brava Antonella, di una pagina, perché sono già arrivati racconti di 2 pagine, che va bene uguale, ma è meglio di una pagina. E il desiderio di Antonella mi piace moltissimo, sarà perché è simile ai miei, e poi soprattutto perché è argomentato. Il mio desiderio è di diventare illusionista e soprattutto imparare a piegare i cucchiai. Sì, da bambina sono stata affascinata dai giochi di prestidigitazione, la capacità di ingannare lo sguardo e la mente con abilità che sfuggono all'attenzione dei più. È grandioso lo stupore che nasce dal rendersi conto che l'illusione può essere più verosimile della realtà. Insomma, una volta disquisivo sulla capacità di piegare i cucchiai del col pensiero con un amico che è un esperto di arti magiche. In quell'occasione mi disse che non poteva assolutamente svelarmi nel segreto riservato agli adepti. Ecco, da quel momento ho desiderato essere un'adepta e poter accedere anch'io a questo sapere riservato a pochi. Lei vuole imparare a diventare un illusionista, quindi dovrà spendere dei soldi per un corso probabilmente di arti magiche e il ricavato dell'asta, se sarà lei a vincerlo, della sera del 19 di giugno andrà a fare cassa per il suo desiderio. Per partecipare potrete andare su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto oppure sul sito radio24.it, c'è proprio una sezione dedicata Vendo Anch'io, lì c'è tutto il regolamento per partecipare. Avete tempo ancora? Boom, 3 settimane più o meno. Torniamo invece agli odori di oggi, quello che vi evocano e i ricordi che vi aprono alcuni odori. 800240024 349-238-6666 per le mie liquirizie, per vederle radio24.it, per sentire la loro storia. Eccoci qui. La scatola di caramelle. Scatola di liquirizie Sassolini, marca Amarelli. Scatola in metallo azzurro con disegno sul coperchio. Dimensioni, lunghezza 10 cm, larghezza 6 cm. Contiene confetti di liquirizie all'anice per un peso netto di 40 grammi, da consumarsi preferibilmente entro il 3 agosto 2012. Perfetta per chi ha problemi di bassa pressione e chi voglia infilare ricordi in una scatola. Valore commerciale 5,50 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono cose da cui non è facile liberarsi. In questi mesi ho venduto di tutto. Ho venduto mobili, elettrodomestici, mezzi di trasporto, capi d'abbigliamento, oggetti grandi e oggetti piccoli, cose piene di storia e cose di cui mi ricordavo ben poco. Ogni oggetto che avevo intorno a me era una piccola zavorra. Di alcuni me ne sono liberato con gioia, sentivo che aspettavo da tempo di alleggerirmene, ma chissà perché non l'avevo mai fatto. Altre ancora invece è stato come perdere una parte di me. La sensazione iniziale è stata proprio quella di dare via un dito o un orecchio. Quando ho immaginato di voler vendere tutto, sinceramente non pensavo che per alcune delle mie cose sarebbe stata così dura. Stranamente, o forse no, non lo so, gli oggetti da cui mi sono separato con maggiore fatica sono stati quelli più piccoli. Ad esempio, quando ho venduto il frigorifero, no? O il tavolo della cucina. Sì, certo, è stato difficile, perché vedevo la casa che si svuotava e perché dovevo trovare una soluzione per starne senza. Però alla fine erano oggetti con un grande valore funzionale più che affettivo. Quando invece ho venduto cose piccole, cose facilmente sostituibili, però piene di significato, ecco, lì è stato più complicato. Il primo oggetto che ho venduto, ad esempio, la bottiglia di vetro entro cui Giulia mi aveva lasciato la lettera con cui chiudeva la storia. Ma, che so, anche il delfino giocattolo, quello che mi ero comprato la prima volta che avevo visto un delfino. Ecco, quegli oggetti lì sono stati difficili da impacchettare e poi da spedire. E la cosa che mi stupisce di più è che ancora adesso mi mancano. Stupisce anche a me ammetterlo, perché mi sono sempre pensato più forte dei ricordi, più forte dei significati nascosti. Però mi stupisce soprattutto perché credevo che fossero solo le persone a potermi mancare. O gli animali, al massimo. Pensavo che il vuoto vero lo si sperimentasse quando manca una persona cara, quando si abbandona, quando si viene abbandonati. Quando da bambini, avete presente, si saluta la mamma entrando all'asilo e si piange come se non la dovessimo rivedere mai più. Ecco, e invece mi sono dovuto ricredere. anche se non li usavo tutti i giorni, anche se ero in un cassetto e non sotto i miei occhi, oggi sento che quei piccoli oggetti mi mancano. Mi manca quello che rappresentavano, forse perché erano dei piccoli contenitori di ricordi. Sì, era come se i ricordi di quel giorno d'estate, in cui ho visto due delfini nuotare davanti alla barca, io li avessi presi e li avessi trasferiti dentro quel giocattolo. Non mi serviva tenermeli nella memoria, perché all'occorrenza, prendendo in mano quel piccolo delfino, il ricordo mi si apriva davanti. L'oggetto che vendo oggi è una scatoletta di metallo piena di liquirizie. Non c'era oggetto migliore per contenere ricordi, visto che ogni volta che apro una scatola di liquirizie dell'Amarelli, mi appare davanti, nitido, il volto di mia nonna. La scatola che contiene i ricordi di mia nonna è una piccola scatola di metallo azzurra. Sul coperchio c'è il disegno di un bambino biondo. Sta su una spiaggia di ciottoli e gioca con una paletta e un cestello. Sullo sfondo il mare e due vele bianche. Le liquirizie si chiamano sassolini, chiaramente per la somiglianza con i ciottoli della spiaggia. Queste liquirizie me le ha sempre regalate mia nonna Lina. Non ho mai visto questa scatola in nessun altro luogo che non fosse casa sua. Oggi mia nonna vive a casa dei miei, ha 89 anni e continua a regalarmi caramelline. Lo fa di nascosto, quando non vede nessuno. Lei rimane lì seduta sulla poltrona della camera di mia sorella, che ormai è diventata la sua. Controlla attraverso la porta nel corridoio non stia arrivando nessuno e mi infila in tasca un pacchetto di caramelle. E poi fa anche shhh, come a dire, non dirlo con nessuno. Ecco, questo è sempre stato l'insegnamento principale di mia nonna. Non fare vedere troppo agli altri le cose che fai tu. Che sia comprare un abito nuovo o regalare una scatola di liquirizie, meglio che in giro si sappia il meno possibile di te. Io sono cresciuto praticamente con lei nelle ore in cui i miei erano al lavoro. E ricordo che appena poteva, tirava giù tutte le tapparelle di casa. In estate perché tiene fuori il caldo, in inverno perché tanto a breve diventa buio. Potete immaginare quanto mia nonna sia felice che io racconti tutti i giorni i fatti miei in radio, però credo che ormai se ne sia fatta una ragione. Mia nonna non parla molto, bisogna chiedergliele le cose per farsele raccontare, se ha mangiato a pranzo, se ha sonno, se ha voglia di uscire, di incontrare un'amica, di guardare la TV. L'unica cosa di cui parla con una certa facilità è di mio nonno Antonio. Mio nonno è mancato nel 1985, nel letto di casa, dopo che si era fatto una guerra e 3 infarti. Quindi mia nonna è vedova da 25 anni. Che a pensarci non lo si riesce a realizzare bene se non facendo un esempio. Ecco, fate così. Provate a pensare ad un ragazzo di 25 anni, nato nel 1985. Un ragazzo che ha studiato, si è laureato ed è un annetto ha iniziato a lavorare. Ha già un paio di storie importanti alle spalle. Oggi è un po' difficile, ma ci sta pure che si sia sposato e che magari abbia già anche un figlio. Ecco, questo ragazzo di 25 anni è il tempo che mia nonna vive da sola, senza l'uomo con cui è stata la maggior parte della sua vita. A me lei parla volentieri di lui, di mio nonno. Sarà perché sorride ogni volta che ne parla, sarà perché dice che io ho preso da lui, però ogni volta che mi parla di lui, mi sembra che sia felice. Questa scatoletta di liquirizie è la cosa forse più difficile che io ho venduto fino ad oggi. Non che mi sembri un tradimento nei confronti di mia nonna, magari me ne dà pure un'altra. Però il bambino sul coperchio e l'odore del dolciastro che emana quando l'apro sono una parte di me e semplicemente dovrò fare un po' più di fatica a ricordarmela, quella parte, senza che questa scatoletta ne contenga i ricordi. Eppure, niente da fare, vendo anche lei, vendo anche questa scatola di liquirizie. Vale 5,50 €, la base d'asta è la solita, 99 centesimi. Se avete voglia di raccontarmi quali ricordi vi evocano quali odori, 800 24 0024. Dove vanno nessuno lo sa, nel paradiso dei calzini si ritrovano tutti vicini, nel paradiso dei calzini. Ciao Marco, niente, come faccio a dirgli che mi chiamo Matteo? Secondo voi? Vabbè. Ciao Marco, io ricordo l'odore di due città che amo e in cui ho vissuto. Appena ci torno lo respiro. È strano, ma hanno un odore particolare, le città. C'è veramente un florilegio di odori. Elena, l'odore dolciastro e stagnante della mela sotto a casa di mia nonna. Ciao, sono Stefano, a me ricordo dei platani mischiata quello dei tigli, mi fa ricordare le vacanze della mia infanzia e adolescenza a Pinarella di Cervia, nell'Adriatico. Questo odore mi fa venire i brividi ed è una bellissima sensazione. L'odore delle tende quando gli batte sopra il sole non è un grande odore, ma apre ricordi bellissimi. Perché è così, no? Non deve essere per forza buono l'odore. Ho 50 anni, le ragazzine ai miei tempi mettevano un profumo che si chiamava Charlie, credo. Evoca festine e primi turbamenti. Ma il tuo programma di merda non finisce più, non ti scade il contratto. Allora abbi pietà e sparati, Marco di Vicenza, sempre lui. Marco, qualche giorno ci sentiamo. 80024 0024. Sentiamo invece Mattia da Milano. Pronto Mattia? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Ciao Mattia. Ciao. Sono a Milano, 42 anni. E a me l'odore che più mi fa ravvivare i ricordi è il castrol. Il castrol è l'olio? L'olio che si metteva nei 125 degli anni 80. Certo, era quello che poi bruciava anche, cioè l'odore che faceva quando usciva dalla marmitta era particolare, quello del due tempi mi pare, no? Mi fa venire in mente i primi assaggi di libertà in giro con gli amici. Senti, tu vai ancora in moto adesso? Sì, cambiato moto. Però tieni sempre lo stesso olio, in modo che così i ricordi sono sempre quelli. No, purtroppo bruciando lascia un altro odore. Ah, niente da fare, cambiate anche l'odore del castro. Ciao Mattia, esatto. Grazie. Ciao, mille, Matteo. Buona giornata. Andiamo a Roma prima, da Renato. Pronto Renato? Ciao Matteo. Ciao, raccontami qual è l'odore, quali ricordi ti apre. L'odore che diciamo mi viene in mente quando faccio il cuoco. E spesso, diciamo, per noi, soltanto per noi, per i ragazzi della cucina, cucino un risotto che mangiavo sempre con mio padre, un risotto ai quattro formaggi con funghi porcini secchi. E nonostante sia un piatto che mi riesce benissimo, e comunque questo odore di funghi porcini secchi mi ricorda quando il mercoledì andavo con mio padre al cinema e ci fermavamo sempre in un ristorante prima di entrare a mangiare questo riso. Senti, e nonostante tutto non lo cucino per gli altri, cucino solo per noi e non lo vendo, perché è una cosa proprio... Cioè non è nel menù del ristorante? Non è nel menù del ristorante ed è una cosa che rimarrà sempre, diciamo, per me, non lo voglio dare a nessuno questa cosa, soltanto alle persone care, quindi lo trasmetterò a mio figlio quando mangerà anche lui, magari perché adesso è piccolino, però insomma quando lui... ma inizierà a mangiare cose un po' più, diciamo, da grande, un po' più concrete, gli farà il risotto con i funghi e gli racconterò del nonno che... Renato, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, alla prossima. Andiamo a Lodi da Annibale. Pronto Annibale? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, raccontami. Io lo sapevo che ti intrigava anche questa storia qua, perché te la racconto? Vai, raccontamela. Allora, no, io sono stato la prima volta a lavorare all'estero in Nigeria a 21 anni. Sì. Io ho 51 anni, quindi parliamo di 30 anni fa. Sì. E andando dall'aeroporto di Lagos verso la città, sentii fortissimo, in piena notte, così non si vedeva quasi niente, sentii fortissimo l'odore misto del... diciamo di un detersivo mescolato con l'odore del fumo di legna, no? Sì. E mi venne in mente praticamente che era lo stesso odore di quando io da bambino assistevo al bucato sull'aia di mia madre, diciamo che si faceva così a quei tempi, diciamo, in campagna. Annibale, che lavoro fai? Ma io adesso faccio tutt'altro. Allora facevo, cioè montavamo centrali elettriche in giro per il mondo. Quella era la mia prima esperienza fuori, ero impaurito dall'uscita, immagino, e questo immagino. Odore di punto in bianco mi ti ha fatto tornare a casa in una maniera struggente. Grazie mille Annibale, buona giornata. Ciao, alla prossima. Emanuela dalla Brianza scrive: lo zio Renato sapeva di caramelle Golia. Grazie a lei, grazie a Laura, Tiziano, Alessandro Genovesi, Pietro Lacorte. La scatola di caramelle di mia nonna è sul sito con tanto di caramelle dentro, e potete comprarla sul profilo di eBay oppure su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani invece vendo un sistema per l'home theater, le caramelle dei vostri nonni invece mangiatevele, che alla fine i nonni sono sempre i nonni. Love, love, love.